E cosa si può bere? Yes, what can one drink? Ma del vino, bianco o rosso? White or red? Una bottiglia di vino. A bottle of wine or? Un bicchiere di vino. A glass of wine. Or if you want? Il vino della casa. The house wine, you can ask for? Un litro o mezzo litro di vino. Half liter or? Un quartino di vino. A quarter of a liter of wine. You can also have a beer. Una birra. Sì, una birra alla spina. A draft beer or? In bottiglia. Bottled. And if you're teetotal, you can have a non-alcoholic drink. Una bibita. Such as? Un'aranciata. An orange drink. Una spremuta. A fruit juice. Or even? Una Coca-Cola.